66. Zuppa alla certosina. Grammi 500 di pesce minuto di diverse specie potranno bastare per una zuppa da servirsi a 4 o 5 persone. Fate un battuto con un quarto di cipolla, prezzemolo e sedano. Mettetelo al fuoco con olio e, colorito che sia, versateci il pesce, bagnandolo quando è asciutto con acqua, sugo di pomodoro, conserva, sale e pepe per condimento. Lasciatelo cuocer bene e poi versate l'acqua corrente per la zuppa, un litro o poco più, fra prima e dopo potrà bastare. Passate il tutto dall'ostaccio o da un colino, strizzando bene, e rimettetelo al fuoco per fargli alzare il bollore e per versarlo ad agio nella zuppiera, ove avrete disfatte avanti due uova con 3 cucchiaiate di parmigiano. Prima di mandare la zuppa in tavola, gettateci il pane, il quale a piccoli dadi può essere soltanto arrostito oppure fritto nell'unto che più vi aggrada, burro, olio o lardo. Le uova col parmigiano, se non vi dispiace di vederle rapprese a stracci, si possono anche frullare a parte e versarle nella pentola, mescolandole fortemente quando il brodo è a bollore. Si dice che il Granduca di Toscana, avendo trovata eccellente questa zuppa in un convento di frati, mandò colà il suo cuoco ad impararla, ma il cuoco, benché molto abile fosse, non riusciva a farla buona come quella dei frati, perché questi non volevano far sapere al Granduca che usavano il brodo di cappone invece dell'acqua.